Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Forse questa mattina non è la mattina più adatta per parlare di questo tema. Perché? Perché c'è una grande euforia da parte degli adulti che si sono sentiti probabilmente tutti reduci da una grande gita scolastica. Però ricordate, questo è il periodo, sarebbe il periodo, perlomeno dovrebbe essere, secondo un calendario tradizionale che ci segue da decenni, il periodo delle gite scolastiche. Ma quest'anno ce ne saranno meno perché nei tagli che ci sono stati all'istruzione, uno di questi tagli corrisponde all'indennità di trasferta all'estero, soprattutto, che poi è di 12 euro per ogni docente, e quindi in gite scolastiche, quindi c'è stato un drastico calo delle gite scolastiche. I professori stanno protestando, dicono: ma non ci pagano più nemmeno per andare in gita scolastica, ce lo fa fare di avere questa super dose di lavoro, di preoccupazione, di angoscia. E quindi c'è un calo notevole di gite scolastiche, perlomeno pare che una scuola su tre abbia rinunciato alla gita scolastica, e all'interno delle scuole una classe su tre non va alle gite scolastiche. Questo naturalmente ha allarmato gli albergatori. Gli albergatori dicono: ma come, è un gettito sui nostri guadagni notevole quello delle gite scolastiche. Pensate che c'è già stato un calo nel 2011 che è più o meno del 35%, proprio perché non vanno più in gita scolastica, tanto che gli agenti di viaggio hanno detto: ma glielo paghiamo noi la differenza, professore. Adesso, senza entrare in merito al sussidio per gli insegnanti, al problema economico, alle proteste, ai sindacati che anche in questo sembra che abbiano una buona parte, entriamo in merito proprio all'istituzione della gita scolastica. Ha ancora un senso la gita scolastica? Che ricordo avete voi delle vostre gite scolastiche? Il mio ricordo è piuttosto datato. Naturalmente nelle scuole quasi rurali umbre la prima gita scolastica veniva preannunciata dalla frase, che poi era sempre la stessa, essere una battuta del professore o del maestro, che diceva: quest'anno andiamo all'estero. E tutti sapevamo che a me da Perugia andare all'estero significava salire sull'autobus e andare a San Marino. Era una tristerrima giornata, infame, era sempre freddo, pioveva sempre, noi eravamo vestiti estivi e c'era un freddo polare, non so perché. San Marino, sotto gita scolastica, pioveva sempre. Si andava a vedere poi il castello di Gradara, si girava un po', si compravano le scemenze fatte apposta per gli studenti in gita scolastica, si fumavano le prime sigarette, naturalmente, perché la gita scolastica è il momento dell'iniziazione alla trasgressione, che negli anni 60 era fumare le prime sigarette, oggi probabilmente è di segno diverso. Io ricordo i pessimi delle gite scolastiche. Poi le gite di tono superiore era la 2 giorni a Venezia o la 4 giorni a Praga e via dicendo, dove in realtà il segno e il testimone ci si passava di classe in classe era quello del casino per il casino. C'era lo scatenamento totale, cadeva ogni legge, si godeva di una sorta di extraterritorialità in cui gli insegnanti avevano già difficoltà a gestirci durante il normale anno, figuriamoci in un momento in cui si faceva quello che si voleva. Io, forse un segno di modernità è proprio quello di rinunciare alle gite scolastiche, questi aggruppamenti in cui l'aspetto didattico è minimo, diventa minimo, l'aspetto di socializzazione è inquinato dal fatto che non è un normale socializzare, è un socializzare in un clima drogato a tutti, in tutti i sensi, con tutte le accezioni cui volete dare, cui i normali assetti della classe, poi sono tante classi messe assieme, sono fortemente accelerati dal fatto che bisogna usufruire al massimo di questi giorni di totale libertà. E quindi il casino nell'albergo, il casino negli autobus, il casino nei mezzi di trasporto, le stracche processioni nei luoghi segnati dalla storia, segnati dall'arte, segnati dalla cultura, al seguito di insegnanti che sono sempre meno motivati, e oggi ancora di più lo saranno immotivati proprio per il fatto che nemmeno vengono pagati per farlo. 800240024. O siate voi reduci da antiche gite scolastiche e abbiate ricordi devastanti da raccontarci, o siate voi genitori che sono di fronte al dilemma se mandare o non mandare in gita scolastica, quindi sono divisi tra le richieste dei figli e tra le consultazioni con gli altri genitori. Non mandare in gita scolastica significa anche comunque è togliere al figlio una casellina del proprio status di studente. Perché non ti ci mandano? Non hanno i soldi per mandartici, non vogliono farti stare insieme agli altri, sono diversi dagli altri genitori, e gli altri genitori si sentono comunque in dovere di stimolare i genitori reticenti a partecipare anche a loro alla gita scolastica, se no non si raggiunge il numero minimo. E gli insegnanti, se voi siete insegnanti, qual è la vera cifra, la vera sostanza, il vero senso oggi di fare una gita scolastica, un momento in cui gli aerei costano pochissimo, in cui tutti sanno organizzare, in cui grazie a Dio ci si muove un po' più, ci sono più occasioni di muoversi, c'è questa sorta di senso che equivaleva all'andare a fare il militare negli anni 40. Chi più ha bisogno di andare in gita scolastica per vedere luoghi di cultura, per viaggiare o per uscire dai confini della propria città? 800 24 0024. Il numero uno diventa numero due, il numero due diventa numero uno. Ragazzi, non mi ammazzate tutti qui in fondo, non litigate, fate i turni. Qui in fondo si mettono le coppie già formate. Quelle che si vogliono formare subentreranno in seguito. Il viaggio è ancora molto lungo, c'è tutto il tempo per fidanzarsi. No, grazie. Fazzoli, la prima mattina la pasta al forno. Sì, ragazzi, voglio essere gentili, ma ti ammazzano, pasta al forno, le lasagne, che cos'è? Ragazzi, il primo che no, posso sedere ai finestrini lo faccio sospendere, è chiaro? Cardini, capito? È libero quello. Questo è il momento fatale, fatidico della gita scolastica nel film La scuola di Daniele Lucchetti, un film tratto dai libri di Domenico Starnone, ex cattedra e sottobanco, che fa parte di un filone molto intenso di film dedicati appunto all'ambiente scolastico. Pupi Avati pure fece un famoso film sulla gita scolastica, questo in particolare di cui protagonista Silvio Orlando e Anna Galiena, parla di a vari livelli di vari intrecci emotivi, tra cui anche gli amori non detti tra professori. Sì, perché anche di questo si è parlato, anche di questo si è vociferato, anche di questo ci siamo accorti quando andavamo noi in gita scolastica, che i professori erano esseri umani. Ricordo una fantastica gita a Praga in cui il professore di applicazioni tecniche ci portò in un night. Già facevamo, cosa facevamo? Le scuole medie probabilmente, forse il ginnasio. No, più facile la scuola media, più facile fosse la terza media. E andammo in un night. Questo professore improvvisamente, che vedevamo come un onesto insegnante che ci dava nozioni sulla più pragmatica delle discipline, lo vedemmo da consumato voyeur, sembrava Fantozzi e Fellini naturalmente, destreggiarsi con l'entrenese di un locale notturno di Praga. Immaginate negli anni 70 cosa poteva essere. Noi ci eravamo portati i sacchetti con i profumi comprati al supermercato e le calze di nylon. Ma forse era al liceo, penso. Sì, non può essere alle scuole medie, sì, era al liceo, scusate, la mente offuscata, sarà stato tipo primo o secondo liceo. Mi ricordo che comprammo i collan di nylon, i profumi, i rossetti e i profumini da 4 soldi al supermercato per portare a Praga. Naturalmente non ne facemmo nulla, però non so, girava voce, bisognava portarseli dietro, e sognavamo chissà quali fantasmagoriche iniziazioni con le meravigliose fanciulle dell'est, che poi in realtà arrivarono, ma arrivarono loro, e i nostri profumi, i nostri rossetti non servirono a nulla. E allora mi veramente adesso, va bene, in camera, e poi tu vai ancora a bocca, non lo schivo la barba, i tedeschi chiamano la polizia, avete sentito? No, sì o no? Non posso, nel corridoio c'è quel rompivalle di Vivaldi. Attacca al lenzuolo e scendi. Sì, così casca e moro. No, no. Se caschi e mori, quel rompivalle di Vivaldi va a finire di cadere. Che grezza! Cardini, è inutile che ti nascondi, sai, ti ho riconosciuto. Com'è andata Osta, eh? Certe volte mi viene la voglia di sospenderti a vita. Devo dire che è ben riassunto il clima del casino, sì, perché il casino è l'elemento più coerente al clima della gita scolastica. Gita scolastica si va per far casino, si va per scatenare quello che ci si è tenuti dentro in tanti anni di scuola, anche perché è un po' come il momento del carnevale, il momento in cui è normale e lecito far casino. Mi stanno arrivando già i primi messaggi, mi scrive Chiara su Facebook, ho 30 anni e la gita scolastica all'estero fu l'ultimo anno, 5 giorni a Parigi. Era il periodo del punk rock, alcol a fiumi e qualche cannetta. vita. Venimmo trascinati in autobus per tutta la città, con quelle viste bulimiche delle città dove vedi tutto in passaggio, niente approfondito. Nulla di più triste poi del pranzo al ristorante italiano. È vero, poi si andava sempre a mangiare in un ristorante italiano. Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Prima telefonata, Giorgio, è un insegnante. Sì, dunque, vi ringrazio per l'ospitalità, prima di tutto. Volevo fare alcune precisazioni. Una, è una vita che gli insegnanti non prendono nemmeno quella miseria della quale ha parlato, tipo 12 euro. E 12 euro all'estero, non corrisponde in realtà? Assolutamente no, perché non c'è ormai quel capitolo spese è stato cassato già da un bel po' di tempo, perché tutti noi insegnanti siamo dei lanzichenecchi che devono operare prendendosi quelle responsabilità delle quali voi avete appena accennato, quindi ragazzi che vanno per fare chiaramente quello che è giusto fare nelle gite scolastiche. Ma lei mi conferma che è ancora un gran bordello la gita scolastica oppure è cambiato? Ancora più di quello che lei ha ricordato. Ci ha delle esperienze vissute sulla sua viva carne? Ma esperienze, per esempio, una trascorsa a Barcellona con un viaggio dalla Puglia in pullman fino a Civitavecchia, Civitavecchia in barco con la Grimaldi tour operator fino a Barcellona, scorrazzati lungo e largo in un albergo dove c'erano ragazzi da tutta l'Europa, e quindi le lascio immaginare le notti insonni trascorse, il tutto per fare non so per quale motivo da parte nostra questa missione alla quale noi siamo votati e siamo chiamati. Questa è soltanto una cosa che la gente che ignora quello che gravita attorno al mondo della scuola e attorno al mondo delle gite, ignorando il tutto, pensa che sia un grandissimo divertimento. Io penso che nemmeno si possa poi imputare tanto. Io mi ricordo, guardi, ero una persona molto tranquillina io al tempo delle gite scolastiche. Ma il coinclima, c'è una sorta di necessità data dalla circostanza, diventiamo degli animali, non so per quale ragione, è difficile, ma è così, si sottrae, è impossibile sottrarsi. Ma ci sono anche dei rischi reali, concreti, la cronaca ne parla, di ragazzi che cascano dalle finestre. È tipico a Roma, per esempio, carissimi colleghi, hanno tuttora in corso un problema serissimo per un ragazzo che nottetempo si è avventurato al di fuori del balcone per andare a fare cucù bau bau alle ragazze che dormivano nella stanza accanto. Guardi, lo feci anch'io il passaggio del balcone, mi ricordo, perché in questi alberghetti, sono sempre alberghi tristissimi, ci sono queste ringhierine con i balconi, con la seggiolina di plastica, dove l'anziano si mette lì al sole, nei pochi istanti che c'è il sole, quando vengono lasciate in uso ai ragazzi nel periodo fuori stagione, perché si va sempre in alberghi fuori stagione, e si passa da una stanza all'altra perché è la prima occasione di promiscuità, e l'insegnante quindi ha grosse responsabilità. L'insegnante però nel corridoio che fa il gendarme per evitare che ci sia comunque anche il disturbo alla quiete di quei pochi che alloggiano nell'albergo. Ma la cosa più tragica in questa situazione, le do due fotografie per farle comprendere: il ragazzo cadde per 5 metri e fu tenuto celato in una stanzetta perché non volevano far sapere agli insegnanti che il ragazzo perdesse sangue, e quindi l'hanno tenuto tutta la notte, l'hanno vegliato, e il mattino dopo il ragazzo è stato operato. Quindi è stata tutta la notte, mentre l'insegnante, non conoscendo assolutamente quello che fosse avvenuto, chiaramente rimaneva nel corridoio. Sì, poi c'è anche una percentuale alta di gravidanze impreviste, diciamo, come postumo delle gite scolastiche. Può darsi, questo onestamente è un dato che non ho. Però chiaro, un non altro può verificare, dato ma avviene, le assicuro. Sì, certo. Lei mi ha chiesto così un'esperienza, le do un'altra fotografia, una fotografia di un'altra esperienza splendida. Immagini discoteche sovraffollate in quel di Barcellona, ci sono degli spazi appositi per il famoso corpo docente, cioè tutti noi sfatti ad aspettare inermi finalmente la conclusione delle battaglie, all'incirca verso le 2, le 3 del mattino. È oziosa la mia domanda, ma l'insegnante poi non ribatte un chiodo, anche non ha quella minima gratificazione di avere anche lui. Ma no. onestamente da uomo a uomo, proprio no, da uomo a uomo, onestamente te passo ogni fantasia. Questo va aggiunto comunque alla lista dei disagi, che non c'è nemmeno la gratificazione di... Ma per niente proprio, perché prevale soltanto il senso di responsabilità, il timore che tutto quanto possa causare problemi ad altri, o soprattutto che anche uno dei ragazzi Ragazzi che viene affidato a noi. Ma allora perché andate a fare le gite scolastiche? Questa è una cosa non dico assurda, si va perché per dovere, perché se c'è un ordine di servizio, se il capo d'istituto ti chiede di andare, c'è un fuggi generale, alla fine rimane sempre qualcuno che obtorto collo deve accompagnare i ragazzi. La ringrazio perché lei ha dato via, sono subissato di telefonate di insegnanti e darò spazio a tutti. 800240024, come il nostro amico ci ha fatto capire, la domanda che dobbiamo farci è questa: ma perché si va ancora in gita scolastica? Maria, buongiorno. Io vorrei parlare sì. della mia esperienza di gita del 1995. Siamo andati in Sicilia e c'era la nostra professoressa che ci faceva pagare la multa se ci svegliavamo in ritardo e quindi scendevamo in ritardo a fare la colazione prima di ripartire poi. E insomma, questa cosa non la trovavamo giusta, quindi tra di noi studenti, che eravamo comunque molto goliardici e divertiti, ci arrabbiavamo, insomma. Beh, almeno manteneva l'ordine, però, anche se era, diciamo, un sistema improprio. Anche prosciugava le nostre esigue finanze, insomma, ecco. Beh, quindi lei non ricorda un momento, a parte questa multa di eccesso? No, ricordo che, a parte questa cosa particolare, perché sentivo comunque del professore di prima che parlava anche del disagio del corpo docente, però un ricordo bellissimo, indimenticabile, del divertimento puro che abbiamo vissuto, senza fare grosse... È chiaro che dal punto di vista dello studente un momento di abbandono di ogni vincolo, di ogni laccio e lacciuolo, però bisogna capire se il gioco vale la candela. Armando, buongiorno. Buongiorno. Io veramente devo dire solo una parola su un'esperienza probabilmente un po' unica. Io intanto ho un po' di anni, sono 51 e quindi parlo di un viaggio del 78, sì. Un po' da privilegiato perché facevo una scuola tedesca e siamo andati a Berlino. Fin qui la cosa diventa, c'era ancora il muro però in quegli anni, era ancora divisa a metà. Questo è il punto, che ci ha accompagnato un insegnante che era profuga della Germania Est. Arrivati a Berlino, lei non poteva accompagnarci oltre il muro e una mattina ci ha accompagnato al checkpoint Charlie e a due, uno che ormai era maggiorenne come nel mio caso e uno che sarebbe diventato lì a pochi mesi, ci ha invitato, ci ha mandati dall'altra parte. Cioè, vi ha mandato oltre Cortina da soli? Sì, una roba da incidente diplomatico. Ci ha mandati da soli. Ma è una cosa oltre ogni regola. Ma sicuramente, la cosa incredibile. Venivate travolti da una Trabant e chi vi portava poi a casa? Infatti, ma la cosa divertente è che qualche tempo fa, io sono tornato a Berlino, sono tornato più volte per lavoro, ma mi è venuto in mente soltanto adesso, e ho chiesto a mia mamma, ormai più che ottantenne, se lei aveva dato qualche consenso a questa gita, diciamo così, un po' anomala. E lei esclude completamente che si fosse parlato del... No, chi ascolta adesso che ha meno di 50 anni non si rende conto cosa significhi e cosa potesse significare in quel tempo. Poteva nascere un incidente diplomatico di proporzioni enormi, esatto, e dei ragazzi esatto, che una cosa incredibile. Passano il checkpoint senza insegnante. Se non vedete la Germania Est non capite cos'è l'Europa. Aveva perfettamente ragione. Ma ancora più grave è il fatto, nell'ottica che se avessero scoperto l'altra parte, la vostra insegnante era un ex transfuga della Germania dell'Est, vi avrebbero ingabbiato tutti perlomeno per accertamenti. 800240024, tra un istante, dopo l'informazione della borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Un giro di pista, un piccolo ballo, dai! Amore! Cardini è scomparso. Per forza che non si trova Cardini. Quando ci siamo fermati alla stazione di servizio ha conosciuto una ragazza carinissima di un'altra scuola che andava in gita scolastica anche lei, però da Aosta lui si è aggregato. Ma come Aosta? Come è aggregato? È stato un colpo di fulmine. Il colpo di fulmine ci viene a noi se non torna, ci arrestano tutti quanti. Torna. E poi i ragazzi dicono che gli hai insegnato tu. Cosa gli ho insegnato io? Semmelin anno, dice di insanire. Sì, una volta all'anno si può impazzire. Io non sono preoccupato per Cardini, sono preoccupato per te. Sì, singolare ma anche sintomatica la corrispondenza tra l'esperienza di Starnone, che ha ispirato il libro La scuola di Daniele Lucchetti, e quello che ci hanno detto gli insegnanti che hanno telefonato. Questa sorta di cardiopalma continuo per l'incolumità dei ragazzi, per le fughe d'amore, per gli affocamenti adolescenziali, per tutto ciò che bisogna sorvegliare e per nulla, per un tozzo di pane. Ma qual è il senso didattico? Cosa rimane da questo viaggiare ai ragazzi? Ma rimane forse un ricordo di spensieratezza estrema, un ricordo di momento di fuga adolescenziale, fuga contenuta e protetta dal sistema scolastico, dal sistema familiare, un po' come quelle feste in terrazzo in cui può accadere tutto e può accadere nulla, e che però fa parte comunque di una ritualità socialmente accettata. Ricordo, visto che siamo in tema di viaggio, che questa settimana Melog sarà fatto, almeno venerdì 18, sarà in diretta dal BIT, la Borsa Internazionale del Turismo 2011 a Milano. Quindi noi lavoreremo in esterna a Milano, visto che Radio 24 dal 17 al 20 seguirà tutta la 31esima edizione del BIT. Venerdì saremo anche noi lì. Chi vorrà respirare la nostra stessa aria, annusare il nostro profumo, sfiorare le nostre tiepide carni, può farlo telefonando all'828 1111, che è la nostra segreteria telefonica, ripeto 800 28 11 11. Abbiamo pochi, rarissimi e preziosissimi biglietti per accedere al BIT, li daremo, secondo un nostro insindacabile giudizio, a chi più ci darà occasioni meritorie per entrare ad assistere, a fare il pubblico palpitante alla nostra trasmissione. Non sto scherzando, venerdì siamo a Milano al BIT, verrà anche Fabrizio Intonti, faremo un bel Melog lì in diretta in mezzo alla gente, e se volete essere lì presenti dovete chiamare all'800 28 11 11. Vi daremo forse, se lo meritate, se ci darete occasione e sarete abbastanza appetibili per partecipare alla trasmissione, vi daremo dei biglietti per entrare al BIT, che poi ci saranno anche millanta meraviglie a girare per il BIT, immagino, ma voi verrete soltanto e unicamente e prevalentemente per assistere carnalmente alla edizione in diretta di Melog. Una comitiva di tedeschi che vogliono che chiami la polizia. La polizia, che esagerazione, si sa che i ragazzi sono un po' vivaci. Ma quei vivaci che ha camminato sul soffitto. Hanno fatto? I suoi alunni hanno camminato sul soffitto, guardi là, guardi le impronte. Lei mi deve spiegare come hanno fatto a camminare sul soffitto. Voglio sapere come hanno fatto a camminare sul soffitto. Certo che i nostri ragazzi sono capaci di fare cose al limite dell'impossibile. Ma quali impossibili? Siete dei criminali. E voi, perché accettate le gite scolastiche in questa topaia? Quando lo sapete benissimo che i ragazzi, per loro natura, sono portati a fare casino, eh? Guardi che se continuiamo così, io sono costretto a liberare il mio mastino napoletano. Ma perché? Lei ha un mastino napoletano. E scrive Marco su Facebook: alla gita di terza media passai tre notti guardando i filmetti erotici sulle reti private. Ma chissà perché non poteva farlo a casa, o perlomeno aveva una sorta di servizio satellitare nelle camere d'albergo fatta per viaggiatori solitari, dove è specificato, nella fattura non viene specificato il tipo di film che voi guardate, ma semplicemente ha usufruito della TV on demand. Marisa, buongiorno. Buongiorno. Ex insegnante elementare. Da 20 anni. Ormai le gite scolastiche, dove andavate? Le gite scolastiche erano le gite di un giorno, però già all'epoca erano di grande responsabilità tenere a bada una classe, tanto che io negli ultimi anni della mia carriera non le facevo più, ecco, mi rifiutavo di andare via per un giorno. E qual era i percorsi, gli itinerari classici delle sue gite scolastiche, come le ricorda lei? Deve essere Siena, San Gimignano, le città d'arte. Città d'arte e da vicine qui nella nostra regione. Quindi quelle tristi con pranzo al sacco, quelle lì? Sì, con i bambini, mi ricordo una gita a Collodi con due fratelline che si bisticciavano. Ah, a Collodi ci hanno portato anche a me a vedere la città di Pinocchio. La città di Pinocchio, lungo il torrente, una volta visitata Villa Garzone con due fratelline che si bisticciavano, uno lanciò la borsa dove erano la merenda nel torrente, sicché drammi, insomma, grandi sofferenze. Ogni pensa, volta un ricordo talmente triste che l'avevo rimosso io, perché pioveva. Dei genitori che accompagnavano, quindi davano una mano, però erano molto faticose e poco produttive, ecco. Ma avevano un senso, lo dicevo a chi mi ha chiamato, avevano un senso quando l'ho fatto io le gite scolastiche negli anni nel 55. Sì, che nessuno viaggiava, allora era difficilissimo. Nessuno viaggiava, e la mia prima esperienza non è stata fatta nemmeno con la mia classe, perché nel 53 le gite non c'erano, eravamo nel 53, era la preistoria. Nel 55 mi sono aggregata alla gita scolastica di una mia amica e abbiamo fatto la gita a Ravenna e a Rimini, abbiamo pernottato. E certo, perché la cosa triste della gita scolastica è che si portano d'inverno, o cioè a primavera, i ragazzini nei luoghi estivi, quindi c'erano questi alberghi desolati con ancora gli ombrelloni e la sabbietta che si trovava dentro il lavandino, che però erano abbandonati da mesi. E l'ultima botta era con la gita scolastica, poi si rimetteva tutto a posto e si attendevano i turisti. Ho al telefono Silvia Dal Pra. Silvia Dal Pra, buongiorno. Buongiorno. Che è insegnante, scrittrice e autrice di Quelli che però è lo stesso, Edizioni La Terza, un libro che parla della sua esperienza di insegnante, ma c'è comunque una parte in cui tratta anche le gite scolastiche. Esiste una possibilità di definire in termini concreti, al di là dell'emotività, il senso reale che ancora oggi fare una gita scolastica? Beh, il senso reale è difficile trovarlo. Guarda, facendo una premessa, io sono una di quelle insegnanti che quando ho cominciato a insegnare pensava mai accompagnerò gli studenti in gita scolastica, perché non essendo finito da tantissimo la mia esperienza scolastica ho ancora delle fotografie agghiaccianti su quello che combinavo io e i miei compagni. Ho addirittura una fotografia a 17 anni a Venezia, che siamo tre ragazze sui tetti di Venezia a un sesto piano di un edificio che beviamo la classica vodka alla frutta, perché non è ancora stata nominata questa mitica vodka alla frutta con cui tutti gli studenti si sbronzano durante le gite. Ah, la vodka alla frutta esiste? Sì, quella terribile, sono i primi... dal melone. Sì, sono i primi drink a basso tasso alcolico, ma se ne fanno 7-8, quindi sì. Sì, noi mi ricordo gite in cui comprammo intere, cioè almeno 3 o 4 bottiglie, e infatti praticamente furono intasati tutti i water dell'hotel, perché c'erano quelli che rimettevano. Quindi io mi ricordo... Ma già, si vomita molto in gita scolastica, il vomito è un classico, sì. Io mi ricordavo una situazione totalmente trash. Quindi pensavo non li accompagnerò mai. Certo, non avevo messo in conto le situazioni lavorative in cui mi avrebbe buttato il Ministero della Pubblica Istruzione. Quindi lei è stata praticamente costretta? No, più che costretta, guarda, io in questi ultimi anni sono stata buttata in posti talmente lontana da casa, talmente scomodi, che ci sono stati dei momenti della mia vita in cui mi sono detta: ma per questa settimana mi sveglio alle 6, sto 3 ore nel traffico a Roma per arrivare a Civitavecchia, a Nettuno, eccetera, oppure vado 3 giorni in gita scolastica che almeno non guido. Sì, la vede come un relax. L'ho vista come un relax. Dimentica dei conati di vomito, di tutte le cose che aveva visto la ragazza. Dimentica, ho deciso di evitare. E ovviamente perché tu non prendi una lira quando vai a fare le gite scolastiche, il primo ascoltatore che ha chiamato... Quindi è una scusa questi 12 euro di cui si parla oggi, decreto Gelmini. Sì, poi è vero, cioè, che 12 euro che ci siano o che non ci siano. Sì, all'estero soltanto 12 euro. Sinceramente uguale. Però uno si deve anche premonire con un'assicurazione. Cioè io sono, tutte le volte che parto per le gite scolastiche, sono blindata da super mega assicurazioni. E penso che sia una cosa che ormai fanno quasi tutti i docenti. Cioè poi, nei confronti, se si schianta un ragazzino non è colpa vostra, ecco, detto in parole povere. No, perché purtroppo è terribile questa cosa, no? Perché è come se ti venisse data la responsabilità di qualsiasi cosa possa succedere nell'ambito della gita e purtroppo anche durante la lezione. Però oggi i docenti proprio si premoniscono in questo modo perché rischi di avere responsabilità che non sono tue, ecco, diciamo così. E comunque però poi all'interno delle gite scolastiche, devo dirvi la verità, io non ho trovato il delirio che mi aspettavo. Nel senso, ho accompagnato gli studenti in luoghi tristissimi, cioè addirittura l'anno scorso sono arrivata all'Isola d'Elba a marzo. Cioè, cosa fa l'Isola d'Elba a marzo? Ah, assolutamente nulla, non lo so. Si guarda nei gabbiani. Sì, ora si scelgono un po' queste queste località anche per venire incontro alle famiglie che non hanno più tanti soldi, no? Quindi si scelgono gite a basso costo, diciamo. Quindi sono gite fantoziane, sfigate, molto fantoziane. Però ecco, io che mi aspettavo, pensa che io avevo questa camera con un terrazzo che comunicava con quello di tutti gli altri ragazzi, quindi mi aspettavo chissà cosa, che venisse a sbirciare la professoressa mentre no, si spogliava. Sicuro, cioè mi sono venuti a bussare costantemente e a un certo punto mi hanno stressato talmente tanto che ho dovuto accettare di accompagnarli a un pigiama party. Cioè come nel film di Silvio Orlando. Sì, solo che questo pigiama allora party... Senti, fermati là. Silvia Dei Pra, ferma, sì. Perché questo momento è un momento a luci rosse, lo so, lo prevedo, lo immagino. Fermati un istante, diamo la linea alle informazioni del traffico e poi ci dirai come accadde che gli studenti prendono la loro insegnante e la portano a un pigiama party. C'est connu quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Allora, questa è l'arena, terzo anfiteatro d'Italia, capace di 25.000 posti, costruito nella prima metà del primo secolo avanti Cristo. Professore, è intorno alla prima metà. Per me, ragazzi, è la stessa cosa, non essere pedante. Spegnete quella musica! Non avete l'insegnante? Noi siamo di Verona, non ci abbiamo il professore! Ragazzi, ma non ci riuscite neanche 5 minuti a fare finta che questa è una gita di istruzione! Molto credibile il ragazzo che parla, dice di essere di Verona, Verona è altra città d'arte, altro luogo meta disastrata di gite scolastiche, basta guardare le scritte sotto il tarocco balcone di Romeo e Giulietta, in quella sorta di androne, quella specie di orrendo luogo ricostruito per turisti negli anni 60, in cui tutti vanno e scrivono delle frasi d'amore, adesso mettono anche dei lucchetti, ci sono delle contaminazioni nel fantastico romantico di questi ultimi anni, per cui lucchetti di Moccia, di Ponte Milvio vengono messi sotto il finto balcone di Romeo e Giulietta a Verona. Maria Chiara, buongiorno, vi lascio sospesi un attimo, so che tutti vorreste sapere come è andato a finire il pigiama party di Silvia Dei Pra, insegnante, scrittrice, autrice di Quelli che però è lo stesso, edizione La Terza, ma vi lascio un attimo con l'acquolina in bocca e sentiamo con Maria Chiara. Maria Chiara, ex insegnante anche lei. Pronto? Sì, Maria Chiara. Dunque, senta, io sono un ex insegnante, ora ho 65 anni, ho fatto l'ultima gita nel 2000. Mai fatto un pigiama party con i suoi? No, l'ho fatta in Grecia, io ho sempre avuto ragazzi grandi nel triennio del superiore. Sono i peggiori. Devo dire che mi hanno fatto il diario del viaggio che conservo con rispetto e progettavano durante questa gita, la gita dell'anno successivo, e io non ho avuto il coraggio di dire loro che non ci sarei stata perché sarei andata in pensione. L'ho detto l'ultimo giorno di scuola. Beh, bellissima questa storia. Devo dire che io le ho fatte queste gite sempre. Può abbassare grande... la radio? Sì, Maria Chiara, abbassi la radio però, sento un po' di eco. Sì, sì. C'è un eco fastidiosa. Le ho fatte senza, con grande disponibilità, nel senso che ho pensato che qualcosa sarebbe comunque loro rimasto. La presente in occupazioni studentesche, si dice non servono a nulla, fanno perdere tempo, però io ho sempre trovato dei ragazzi dopo sensibilizzati. E quindi l'ho portati volentieri, anche perché in questo periodo di grande ignoranza, villania, i ragazzi che non lei al suo punto di vista, dice la gita scolastica è un momento di formazione, dipende molto dall'insegnante. Rispetto al suo punto di vista, che è lievemente diverso però da quello che stanno dicendo gli altri. Davide, buongiorno. Buongiorno, la mia è una storia un po' diversa. A Roma, in Pullman. Da dove venivate? Da Bologna, con un autista stile Diego Abatantuono e un'integerrima professoressa di latino e italiano che in aula non faceva volare una mosca. Lei cos'era? Lei era un ragazzo, era allora? Ero uno studente al penultimo anno di liceo. E che è successo? E la penultima serata l'autista convinse, non si sa come, la professoressa ad andare tutti quanti al mitico Piper. Con Patti Pravo allora? No, eravamo all'inizio degli anni Ottanta, però c'era ancora le sfere di cristallo che giravano. E la professoressa fu la più scatenata di tutti. Si lascia andare, si lascia andare. si lascia andare, tornammo in albergo alle 3:30 di mattina, e? Si chiuse in camera con l'autista, Diego Batantuono, e il giorno dopo saltarono le visite ai Musei Vaticani e ripartimmo. Era molto cambiata la professoressa. Era molto cambiata la professoressa. In discoteca era, sembrava John Travolta in La febbre del sabato sera. No, dico, la mattina dopo, davanti al cappuccino, la vedevate modificata nella sua struttura esteriore. Nessun cappuccino, si alzò all'1:30 del pomeriggio. Aveva probabilmente arretrati notevoli nella correzione dei compiti, nell'apprendimento dei programmi da riempire. Riprendiamo a questo punto, visto che siamo nel clima, Silvia Depra. Eccomi. No, mi sono appassionata alla storia della professoressa con l'autista. Stai notando che la realtà molte volte supera ogni realtà romanzesca. Sì, decisamente. Quindi, diciamo, la professoressa corrotta che svela la sua natura libertina con l'autista rozzo che le fa scoprire nella sua brutalità vertici per lei inimmaginabili, la passione sensuale, ha qualcosa a che fare con il tuo pigiama party? No, per niente. Io sono arrivata a questo pigiama party, trascinata tra l'altro, e ho trovato i miei studenti, dovete considerare che io insegno spesso nei professionali di estrema periferia, quindi studenti con piercing ovunque. Sì, ma chi è che ancora porta il pigiama? Una curiosità, scusa, ma non so, non uso pigiami da 20 anni, ma uno studente ancora si va in gita scolastica col pigiama nella borsa? No, allora, le ragazze ci tengono a queste piccole cose, per cui se dicono pigiama party, sono in pigiama. Ma gli uomini portano il pigiama? Come? Gli uomini hanno il pigiama quando no, vanno... No, i maschi non si presenterebbero mai in come pigiama. Come al Grande Fratello, in mutande, in nudi. No, i maschi stanno vestiti. E le ragazze con questi pigiamoni, con cuoricini, eccetera, eccetera. Comunque arrivo e trovo questi 20 adolescenti tatuati, piercati, che ero abituata a vedere fare una confusione pazzesca a scuola. Li trovo con le patatine Puff, le Coca-Cole... E il massimo della trasgressione della serata era cercare di far mangiare a me le Puff, perché non le volevo mangiare, e la musica era un tipo festina delle medie, ma altro che il tempo di venire. Tu ti aspettavi qualcosa di lievemente più frizzante, invece hai trovato una festicciolina, mancava soltanto l'animatore che faceva i palloncini e vestiti da pagliaccio. Guarda, era veramente così, per cui anche lì non è che abbia trovato queste grandissime trasgressioni, ecco, dicono però che molto spesso i ragazzi nelle scuole, diciamo così, più difficili, c'è una sono cosa più carini. Cioè, questi però ragazzi ascolta un attimo quello che dice Fabio, che Fabio ha una cosina interessante per dare il senso. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Che avete fatto voi durante... Allora, io sono uno di quei ragazzi difficili che diciamo appunto adesso, no? Sì. Quindi è uno di quei... No, mi fa piacere che le difficoltà poi sono passate con l'età, perché sennò... Non ti sarebbe dato modo di telefonarci? Ah, certo. Dalla cella di sicurezza in cui stavi rinchiuso. Okay, però diciamo, ecco, ragazzi difficili per modo di dire, ecco, un po' più... Quindi che facciamo? In una scolastica a Bergamo Alta, quindi una gita insomma praticamente strana, perché già Bergamo Alta, no? Con una classe tutta femminile di un'altra scuola, quindi un gemellato di un'altra scuola, e noi diciamo svariati maschietti. Assatanati come mantine. Assatanati come bestie praticamente, quindi due, tre per mano, insomma, per volta, state tutte in camera, quindi la professoressa italiana ci negava questo andare in camera di altre ragazze o far bene le ragazze in camera nostra. Cioè impediva la lecita promiscuità, e che avete fatto? Niente, l'abbiamo buttata dal castello, si ruppe un braccio. A che altezza avete buttata? Sì, l'abbiamo spinta da una scala del castello, si ruppe una spalla, e quindi venne una professore di ginnastica a fare. Ma voi l'avete lasciata lì o poi l'avete anche soccorsa? No, l'abbiamo soccorsa, poi è andata via, e tra l'altro ci viene anche a trovare a casa, insomma, dispiaciuta. Come il braccio al collo ingessato. Sì. Allora, Fabio, mi sembra che chiuda e chiosi in maniera sublime quella che è il nostro punto di vista sulle gite scolastiche. È un momento arcaico, un momento di uscita alla realtà, un momento di ritorno allo stato belluino che poi la civilizzazione e la vita non permetterà più a questi ragazzi. Se volete continuare a farglielo vivere come tale, questa è la gita scolastica. Se pensate che sia un momento didattico, forse ci sarebbe da riflettere. A domani. Melog 2.0. Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.